l'Italia che verrà. Oltre il turismo di massa, mete sempre più personalizzate, di Annarita D'Ambrosio. Terza puntata del nostro viaggio nell'Italia che gli anni della crisi ha trasformato, cambiati i nostri stili di vita, le nostre abitudini, cambiato il nostro modo di viaggiare. Ma poi perché noi devono cambiare? Questa è quasi nuova, la 127 è la macchina più bella del mondo. Sì, è bella, ma c'è la stretta. Sì, quando l'abbiamo comprata ci andava bene. Arè, 20 anni fa pesavamo pure 15 kg di meno. Lo so. E che vuoi fare? Però Agu, sta tranquilla, che quando ritorniamo da ste vacanze intelligenti, con quello che mangiamo, anzi con quello che non mangiamo, ci arriva larga un'altra volta questa. Il film è del 1978, si intitola Dove vai in vacanza. L'episodio con Alberto Sordi e la moglie è sulle vacanze intelligenti. Perché l'ho scelto? Perché è quanto di più lontano dall'Italia che verrà, che vi stiamo raccontando. Il turismo non è più quello, è cambiato profondamente. Colpa della crisi? Anche, ma non solo, ci ha spiegato il professor Asterio Savelli dell'Università di Bologna. È chiaro che nel turismo non è che ci siano oscillazioni immediate rispetto ai fatti economici. Ci sono oscillazioni, come dire, che riguardano magari la quantità dei viaggi o la durata dei viaggi, ma non che riguardano i modelli di comportamento, intendo. Noi abbiamo una evoluzione di modelli di comportamento che rispondono a mutamenti che intervengono nel lungo periodo. La crisi del turismo di massa è legata a quello che normalmente, ormai con parole stereotipate, chiamiamo il passaggio dalla società industriale avanzata alla società post-industriale. E questo è un nodo di lungo periodo in cui siamo immersi, in cui stiamo navigando, per così dire. Quello che mi preme mettere in evidenza è il mutamento di significati che il turismo può avere in questo passaggio storico, diciamo. Ovvero, ce lo spieghi meglio. Il significato del turismo di massa era quello di sottolineare da parte di ciascuno il proprio esserci nella società del suo tempo. Il sistema sociale era un tutto unitario in cui ciascuno di noi si collocava, riusciva, come dire, a leggere con trasparenza quella che era la sua posizione e il suo muoversi dentro il sistema sociale. Sicuro che anche gli altri avrebbero letto alla stessa maniera sua sia la posizione che il suo muoversi, le sue carriere, le sue dinamiche sociali, eccetera. Quando la società diventa qualcosa di molto più complesso e il sistema sociale diventa meno leggibile, in una situazione, vale a dire, quella che c'è oggi, sempre meno leggibile, per meglio dire, quando questo avviene il soggetto non ha più riferimenti negli altri, nelle aspettative che gli altri hanno nei suoi confronti. Non c'è più l'aspettativa che io vada a Rimini a Ferragosto, per intenderci, da parte degli altri. Né io trovo nell'andare a Rimini a Ferragosto una risposta alla domanda chi sono io, se non riesco più a identificarmi con gli altri. E allora cosa faccio? Cerco un percorso che sia soltanto mio, un percorso che non esclude che io vada anche dove vanno gli altri, ma ci vado con una logica mia. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. La crisi ha inciso dunque, ma solo in parte. Siamo noi ad essere cambiati, noi che cerchiamo mete insolite da raccontare sui social network, noi che alle vacanze come sinonimo di benessere, per fortuna, non vogliamo comunque rinunciare. Concorda con l'analisi del professor Savelli il presidente ASTOI, l'associazione confindustriale dei tour operator, Luca Battifora, che aggiunge: eravamo la generazione stessa spiaggia, stesso mare, anche perché le destinazioni da raggiungere non erano poi tante all'epoca. È aumentata la mobilità, il mondo è più a portata di mano di tutti, i prezzi sono competitivi perché aumenta l'offerta. La crisi economica ha sicuramente inciso su delle fasce specifiche di consumatori. La fascia, diciamo, alto spendente, il lusso, non ha risentito della crisi, anzi tutti gli indicatori dicono che è aumentato il consumo di prodotti di lusso, mentre è stata fortemente colpita la fascia media, che era la fascia che viaggiava per piacere, che viaggiava anche magari due volte l'anno, in questo caso ha ridotto magari una vacanza soltanto, chi ne faceva una in qualche caso ha dovuto rinunciarci. C'è un termine sicuramente di durata che è cambiato, poi è cambiata radicalmente l'offerta grazie al mondo internet, al web, che ha portato il fenomeno low cost nel mondo del trasporto aereo, che ha portato comunque un ampliamento e una facilità di accesso all'offerta di prodotto. Anche il mondo del turismo organizzato, che io rappresento come tour operating, è sempre più andato a seguire i bisogni del consumatore e meno la destinazione in quanto tale. Secondo lei questi cambiamenti che la crisi ha portato poi saranno di lunga durata o ci dobbiamo aspettare ancora degli altri cambiamenti? I cambiamenti saranno culturali, non dovuti alla crisi. La crisi determina degli effetti immediati, sono delle costrizioni alla quale si scende a compromessi per necessità ma non per scelta. Quindi io credo che il viaggio resti un bene prezioso alla quale, se è possibile, non si rinuncia. Sicuramente invece c'è una continua evoluzione del modo di consumare viaggi e vacanze, quindi sempre più tematico, sempre più esperienziale. Però io sono assolutamente convinto che il segmento viaggio nella globalità di quello che contiene continuerà a crescere, perché è sinonimo di benessere e le persone cercano il benessere. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Crisi economica che ha inciso su un processo già in corso, e allora non deve stupire, lo avete sentito, se proprio in tempi di crisi il settore del turismo di lusso è cresciuto e non ha subito ridimensionamenti. Ce lo ha confermato la collega Serena Brivio, giornalista della provincia di Como, che scrive di economia, moda e lusso. Noi vantiamo un luogo unico al mondo, così dicono star anche del calibro di George Clooney, che, come noto, ha una casa che ama molto sul lago di Como. Diciamo che la crisi non ha influito sul numero delle presenze, ma sicuramente nei comportamenti. La stagione del 2015 si è conclusa sicuramente in modo molto positivo, grazie anche al cambio favorevole del dollaro. Diciamo che comunque ci sono non c'è un allarme, ma c'è qualche preoccupazione per invece la stagione che verrà. I cambiamenti comportamentali come si sono concretizzati? Vacanze meno lunghe? Ecco, soprattutto nel target giovane, coppie o comunque un'utenza più giovane, sicuramente ha accorciato. Una volta, non so, nei nostri alberghi 5 stelle più rinomati come Villa d'Este, Grand Hotel Tremezzo, Terzo Belloni, eccetera, c'erano delle coppie, soprattutto di americani, che passavano anche un mese, due, tre settimane. Oggi diciamo che anche una clientela sicuramente che dispone di un budget notevole, però ama più fare delle esperienze in località diverse, quindi il tempo di vacanza è in media attorno ai 2-3 giorni. Per quanto riguarda le aziende, molto spesso in questi alberghi di lusso c'erano anche dei viaggi premio che le aziende organizzavano. Anche questo è un fenomeno che ha subito una crisi? Ecco, questo diciamo che il fenomeno è il settore che ha subito maggior decrescita. C'è stato un calo proprio, ci sono stati dei picchi, e devo dire che nel privato non si è ancora ripreso assolutamente, perché evidentemente anche la situazione economica rimane decisamente incerta e quindi questi budget sono stati tagliati, mentre invece dopo un calo direi consistente è assolutamente ripresa la convegnistica, perché voglio dire, le aziende comunque devono continuare a promuovere e fare attività di marketing soprattutto per incrementare il loro business, e quindi qui abbiamo dei dati sicuramente confortanti. Si parte per dimenticare o per cercare un lungomare, per avere un'altra vita e per poter ricominciare. Io sto bene quando sto lontano da me. Siamo tornati al turismo aristocratico dell'Ottocento e dei primi 15 anni del Novecento? No, ne abbiamo ereditato solo l'esclusività, destinata, ci dicono i nostri ospiti, a crescere ancora di più a causa anche del fattore paura. Gli attacchi terroristici non ci priveranno del viaggio, ci faranno scegliere prevedibilmente mete sempre più insolite, sempre più nostre, mete che sentiamo come tali più sicure.